se chiudo gli occhi posso immaginarmi molto più charmant. Col vestito nuovo metto del rossetto e volo sul tapirulan. Che mi porta fino a te, che mi stringe le braccia sussurrando frasi come un cliché. Certo questa sera al ballo gentilmente lui mi bacerà la mano, mi offrirà da bere insieme e brinderemo con un sorso di champagne. E lui ballerà con me, mi farà dimenticare tutto il dispiacere con un bel cassier. Shabba, shabba del camembert, brindo da sola davanti allo spec. Shabba, shabba del camembert, un altro valzer ma senza di te. Come la mia vita sola senza te, e la festa è già finita come la mia vita sola senza te, e la festa è già finita come la mia vita sola senza te.